Piccolo, troppo piccolo per metterti i blue jeans. Non correre, devi attendere per metterti i blue jeans. Ti piacciono i jukebox, ti piace rock and roll, ma c'è Pinocchio che sembra scritto solo per te. Sei piccolo, troppo piccolo per metterti i blue jeans. Oh, sei incontentabile e non vuoi sentire più dolci favole. Sei moderno e questo a me può piacere, ma tu non devi esagerare, oh no. Non ti so capire, so far pensiero che hai gettato in un cassetto il grembiule blu. Ed il libro cuore non ti interessa più. E mi parli di blue jeans, no, no, io ti devo dire no, no, no. Sei piccolo, troppo piccolo per metterti blue jeans. Non correre, devi attendere per metterti blue jeans. Ti piacciono i jukebox, ti piace il rock and roll, ma c'è Pinocchio che sembra scritto solo per te. Sei piccolo, troppo piccolo per metterti i blue jeans. Jukebox, jukebox, rock and roll, no, no. Sei piccolo, troppo piccolo per metterti i blue jeans. La la la la la la la la. Piccolo, troppo piccolo, piccolissimo per i blue jeans, per i blue jeans.